queste due parole mi corrodono lentamente e rimango in piedi, ma sofferente. Non posso amarti, ma neanche odiarti, e lì dietro di te rimango a guardarti. Verdi come i tuoi occhi, verde come la speranza che mi alimenta e mi uccide, il mio essere come spine. Sono come un'anima dannata che scrive ciò che non esprime, libero quello che rimane dentro di me senza dare respiro ai miei perché. Verdi come i tuoi occhi, verde come la speranza che mi alimenta e mi uccide, il mio essere come io.